La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Questa è la lettera di Alberto Milan da Vicenza e scrive: ho pubblicato la sua frase, l'amore è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia, su una delle mie protesi emozionali di nicolettiana memoria. E ho ricevuto da una conoscente questa risposta: direi che la coppia, vissuta a 360 gradi, è amore. E al giorno d'oggi ci vuol coraggio e perseveranza per realizzarla. La visione dell'Alberti è purtroppo disfattista e senza speranza. Mi piacerebbe conoscere il suo parere. Le chiedo poi se anche lei disponesse eventualmente di protesi emozionali. Rispondo subito alla seconda domanda. Beh, no, le mie protesi emozionali sono molto antiquate. Sono un lettore di CD, sono una montagna enorme di fogli. Ma per tornare invece, per venire alla frase, al parere della sua amica e alla frase l'amore è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia, visto che me ne dai l'occasione, ti spiego il senso di questa frase, che è una frase particolare, in quanto è un aforisma, ovvero è la sintesi di un pensiero. E come un verso in poesia non andrebbe spiegata, perché la forza è tutta nell'espressione. E non solo, ma è nella natura dell'aforisma essere interpretato in molti modi. Io però vorrei chiarire le mie intenzioni. Se dico l'amore per i coraggiosi, tutto il resto è coppia, non vuole mica dire che alle coppie è precluso l'amore, o che sono amore solo gli incontri brevi e folgoranti. E non vuol dire che con l'amore non si possano costruire delle vite intere. Si intende altro. Si intende che l'amore finisce quando si diventa una coppia, nel senso peggiore, la coppia con tutte le nevrosi e le finzioni della unione istituzionalizzata, anche senza matrimonio. Quando si finisce di essere amanti, di essere sposi, ma si diventa delle pietre immobili in un ruolo, quando non c'è più umorismo, dinamismo né dialettica d'amore. Quando invece che amanti e compagni si diventa il poliziotto l'uno dell'altro, quando ci si sorveglia, ci si mente, quando il sentimento è finito ma si resta insieme nella bugia, per viltà, per paura della solitudine e perché no della sanzione sociale che, vuoi o non vuoi, in maniera palese o strisciante colpisce single, specie se sono donne, quando non c'è più alleanza, anzi quando non c'è mai stata, quando si sta chiusi ognuno nel proprio egoismo senza mai comunicare con l'altro, quando non si ha voglia di dire si vede una cosa dalla finestra, ehi vieni a vedere, quando non si vuol più condividere nulla con l'altro e si condivide soltanto il teatro di una vita mancata, quando si divide la bugia di un sentimento contraffatto, quando si diventa nemici travestiti, tenuti insieme dalla paura o dalla convenienza, come noi misteriosamente chiamiamo la nostra rovina. E sai, l'ho fatto per convenienza. No, non ti conviene. Quando insieme si va contro se stessi. Io non vedo cosa ci sia di nichilista e disperato in questo. Penso anzi che niente di più nichilista e disperato che mentire con ogni respiro, come fanno tante coppie, che appunto sono diventate coppie, rinunciando ad essere persone. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara guardiana, ho donato tutto ciò che ho potuto a una donna con un bambino che ha ricambiato il mio amore per 3 anni. Abbiamo vissuto insieme, fatto progetti, costruito una casa. Ho iniziato a sentirla lontana, distante, incapace d'amarmi ancora. Un giorno, su mia insistenza, mi ha rivelato una sua relazione con un altro uomo. Lei bella, corteggiata, ottima madre, incolpa l'incapacità di far durare a lungo le sue storie a causa del suo rapporto con i genitori, ma giura che con me sarà diverso. Le ho creduto. Ho cercato di costruire una famiglia con lei. Per 1 anno dopo la sua confessione abbiamo continuato a frequentarci, case diverse, letti diversi, e lei che ancora oggi non riesce più a nemmeno a dirmi ti amo. E la colpa di tutto è diventata anche mia. Dice che non l'ho lasciata abbastanza libera, che da uomo geloso le ho tagliato le ali. Ultimamente racconta bugie, un nostro anniversario è passato indifferente e non ci sentiamo più da diversi giorni. Ci siamo dati tanto e non so più se lottare per ottenere qualcosa oppure andarmene lontano, prendere magari la via del mare. Sto morendo d'amore per questa donna madre meravigliosa. Può finire così l'amore di una vita? Chiedo aiuto e cito Tom Waits. Biciclette rotte, vecchie catene grippate, manubri arrugginiti sotto la pioggia. Ci sarà pure un orfanotrofio per le cose che nessuno vuole più. Settembre ricorda luglio. È tempo di dirsi addio. L'estate è finita, ma il nostro amore resterà come vecchie bici rotte abbandonate sotto la pioggia. Biciclette rotte, non ditelo ai miei. Ci sono tutte quelle carte da gioco fissate ai raggi. Biciclette rotte deposte come scheletri su un prato. Una ruota non gira se l'altra non c'è più. Le stagioni possono cambiare in fretta e ogni volta me le scordo. Le cose che mi hai dato resteranno sempre con me. Sono rotte, ma io non le getterò mai via. Perdonami, ti rispondo soltanto adesso e vedo che la tua lettera è di luglio. Era un pacchettino che si era nascosto e l'ho trovato tardi. Ormai ti sarai aiutato da solo. E però ti rispondo anche se non serve a te perché serve a noi. La tua lettera di innamorato non più amato che non maledice, che non accusa, che sta sull'essenziale, ovvero la forza del tuo sentimento. La tua lettera mi ispira una simpatia profonda per la profondità di quello che senti. Sono passati tanti mesi, che è successo nel frattempo? Io spero che tu ci scriva ancora e ci dica cosa è successo dopo. Anche se ti avessi risposto in tempo, mai avrei potuto darti una risposta più giusta di quella che ti sei dato da solo, leggendo i versi di Tom Waits, che la sa molto più lunga di me. E chissà se anche le vecchie lettere smarrite sono come le biciclette rotte, che non servono a niente ma non si gettano via. E chissà che effetto farà a te risentirla. La guardiana del faro. La storia che vi sto per leggere è tratta da un mio libro che si chiama Donna di piacere, pubblicato da Mondadori. Ve lo leggo in una versione leggermente rielaborata per il primo volume di Principesse Azzurre, a cura di Delia Vaccarello, anche questo pubblicato da Mondadori. Questa storia d'amore si svolge al bordello, un bordello di campagna. Siamo alla fine dell'Ottocento. In questa casa annidata in mezzo alle colline, le ragazze aspettano gli uomini per la gran festa di martedì grasso, per la gran festa in maschera. Ma cade tanta neve, nessuno è venuto ancora. Sono in pena le ragazze, è in pena Madame Goulon, la avidissima maîtresse del bordello, ma più in pena di tutti è Jolly. Jolly perché è d'accordo col suo amante Ovidio che verrà a rapirla quella notte e la porterà via e la sposerà. Chi racconta è Chiara, una ragazza, la serva del bordello. Martedì grasso. Più tardi verranno gli uomini. Per questo la casa trema. Per questo Chiara le calze. Chiara il belletto. Chiara, ho l'alito cattivo oggi. Elvira, stringo il corsetto. Adamina, stiro il merletto delle portentose mutande. Conobbero, pare, mani di re. Ma tutte sussurro, in segreto, sei tu la più bella. Alla Nichilina afferro a chioma bizzoso cavallo e dei serpenti neri sui suoi capelli faccio una solida treccia da bella. Ma lei si morde le labbra. Piacerò, dice. All'orefice? Severa, con la bacchetta. Madame Goulon si batte la mano. Nichilina, una vera puttana, ha da piacere a tutti. E sciolta la chioma, che all'uomo la testa scomposta suggerisce stranezze. E i soldi non contano più niente. I soldi, che pure son tutto. Io cerco che facciano piano, che non disturbino Cantilena. Zitte, dico. Cantilena sta morendo. Cantilena, che fu grande nella sua specialità. Un po' di rispetto per chi il mestiere l'ha conosciuto davvero. Avete già scordato le sue incomparabili lezioni? Quando inforcava gli occhiali, modesta e solenne. Dovete imparare a riconoscere il maschio dal sapore del seme. Io assaporavo sempre e distinguevo gli uomini. I malinconici l'hanno aspro. Agli avari sa di stantio. I timidi l'hanno dolce. Attenti a loro, fanno innamorare quelli. Corro in soffitta dove Madame Goulon ha nascosto Cantilena da quando ho cominciato a morire, tanto tempo fa. Eppure non si decide, si attacca tutto. Le sono caduti molti peli, ma ne ha ancora 11. Li conta e vivrò fino all'estate, dice. Cantilena dorme su un materasso riempito di soldi ammucchiati con la sua specialità. Solo per questo la Goulon non l'ha ancora fatta avvelenare. Quando morirà avrà da ripagarsi la misera pensione. Madame Goulon crede solo al denaro, che è un dio buono con i suoi veri devoti, quelli che raggiungono la perfezione. Neve, neve, purché non ne venga troppa. Ma perché Jolly si torce le mani e rannusia la spia? Perché quegli sguardi? Jolly alla finestra, rannusia sul volto di Jolly. Eppure, tra loro è finita da tempo. Fra noi non finirà mai, dice l'occhio di rannusia fisso su Jolly. Ed un amore assassino le scintilla il viso. Jolly sfugge Rannusia e Rannusia la assedia. Riesce a tirarla dietro il paravento cinese. Nascoste fra i draghi d'oro parlano piano, in affanno. Corsi a origliare. Dalla voce di Jolly venne a sapere il segreto. Stasera, tra gli altri, verrà il più sospirato, il più ambito di tutti i clienti della regione. Ovidio, l'orefice, e rapirà Jolly. Dalla porta dell'orto farà il verso del gufo, la porterà lontana, la sposerà. Perfino l'abito è pronto, bianco, una nuvola, tutti i miei risparmi. Un respiro corto, di cane, Rannusia. E io? Una risata bassa, vile e gioiosa, Jolly. Tu, che vuoi tu? La Goulon con una manata butta giù il paravento, snida le due, se la prende con Rannusia, la umilia davanti alle altre che ridacchiano. Nessuna ha rispetto per Rannusia. Odiatrice degli uomini, si è ridotta a guadagnarsi la vita dandola via. E proprio a loro, che solo l'odore la fa star male, ma non aveva scelta. Troppo turbinosa è stata la vita di Rannusia. Tutto va male ai coraggiosi che non sorridono. Nella sua stanza, spolvero con le foto, un passato avventuriero. Al varo d'un piroscafo, alle corse dei levrieri, la sua faccia dice «Io vincerò». Faceva innamorare tutte allora. Quanti mariti ha fatto piangere. Poi la rovina, il bordello. Vendendosi agli uomini, però, ha il vantaggio di vivere con le donne, che non la amano. Rannusia è la nemica, quella con cui non ci si confida e discorsi tacciono se lei è sulla porta. Per i suoi gusti contrari all'uso comune, condannata Rannusia alla delizia suprema, essere l'amante di quando fa buio, di quando hanno paura. Maestra nel disprezzo, non conosce l'orgoglio e vive acquattata, aspettando il suo momento, aspettando che l'ultima arrivata pianga tutta la notte e alla fine la chiami, purché non si sappia. E lei, sciacallo d'amore, non tradisce nessuna e sopravvive. Ma con Jolly fu diverso. Jolly, appena venuta qui, aveva più paura di tutte. Conosceva solo la miseria. Era vergine e capricciosa. Fu un amore ardente e segreto, il primo per Jolly, l'unico di Rannusia, pieno di astuzie tremende per non farsi scoprire. Finché una sera un cliente di Montecastrilli offrì una cifra per la verginità di Jolly. Madame la infiocchettò e diede un brindisi con la champagne. Mentre di sotto saltavano ancora i tappi, il cliente fece le furie dell'inferno in camera di Jolly perché si accorse che lo avevano truffato e voleva chiamare la padrona. Fu allora che Jolly, per paura di essere scoperta, inventò qualcosa di grande. Ricordando Rannusia, lo amò come si amano le donne. Con delicati brividi, lentissime carezze, annebbiò in lui il miraggio della verginità violata. E quello perse la testa al punto che non fiatò con la madama e pagò una seduta ordinaria come uno stupro, perché più di tutto valeva l'impalpabile vertigine di Jolly. Da quel momento Jolly si rivelò una protagonista dell'amore. Divenne una diva, facendo ai maschi tutto ciò che Rannusia aveva fatto a lei. Era la sua arma segreta. Il sabato i veri buoni gustai chiedevano solo di Jolly, e le altre crepavano d'invidia. Il successo le veniva dagli uomini. Cominciò ad amarli. Rannusia tornò ad accontentarsi degli avanzi. Jolly la beffava davanti alle altre. Per lei Rannusia era ormai solo una minaccia alla sua carriera. Madame Goulon stava in guardia. Sapeva che la passione sempre offende il denaro. Poi il destino. In città morì una zia della Goulon. La padrona pianse di gioia. Invecchiando, soffriva sempre di più a essere rinnegata dalla famiglia. Al funerale la chiamerebbero signora. Ma esitò alquanto. Non le garbava lasciare il casino di sabato. Rannusia spiava la sua decisione come in gabbia e la Goulon sentiva che era pericoloso lasciarla con Jolly. Guai se la storia dovesse ricominciare, e proprio ora che Jolly rende dei bei soldi. Ma infine partì, lasciando il comando alla Nichilina e ordinandole che Jolly e Rannusia non si trovassero mai da sole. Ed ecco, si vide venir su per la collina un calesse elegante. Ne scesero tre signori di città che volevano cose speciali. La Nichilina era in pena, clienti così, senza madame, non sapeva come fare. Ne approfittò Rannusia per farsi avanti. Le disse, il lavoro è lavoro, il numero coi clienti di città lo faccio io, basta che mi dai Jolly. Faremo un figurone. La Nichilina non voleva, per paura che se lo viene a sapere la madama, ma Rannusia dice, li hai visti, di? Li hai visti? Hanno i brillanti ai polsini, tipi così, capitano una volta sola. Non si può mica fargli dire che siamo indietro, che non siamo all'altezza. E gli caviamo tanti di quei soldi. Finalmente Rannusia riuscì a chiudersi nella camera migliore con Jolly e tre raffinati clienti, ragazzi di bello spirito che le trattavano da puttane di campagna. Le perfide di Jolly duravano da mesi, ma non si erano mai più trovate sole. Rannusia cominciò a carezzarla come un tempo, come per divertire i clienti, disperatamente cercò di sedurla davanti a loro. Jolly era ritrosa, ma poi l'arte spietata di Rannusia cominciò a risvegliarla e quelli non avevano più l'aria di prendere in giro. La camera è un sordo coro di piacere, i clienti sbiancano. Così dritto non l'ebbero mai, neppure a Vienna, neppure a Singapore. Rannusia ha ripreso Jolly, mordendola davanti a tutti come fa la tigre. Davanti a tutti, col pretesto di una buona marchetta, si è riconfermata signora del suo piacere. Sono incantati i clienti, che nei casini migliori si fruisce al più di graziose messe in scene, ma quella danza feroce d'amore infiammò i loro sensi a tal segno che l'orgia durò tutta la notte. Il giorno seguente erano ancora dentro e rifiutavano di aprire. In quella tornò Madame Goulon e la Nichilina tremante fu costretta a dirle chi c'era nella stanza e che avevano sparato in aria perché lei insisteva a bussare. La Goulon mormorò, quella volpe me l'ha fatta. Intascò il denaro, ma capì che il guaio era fatto. La notte, quando i clienti erano partiti, si udivano ora i rantoli di Jolly. Tutte sanno che nessun uomo può farti gemere così. E queste cose fanno male alle ragazze, le confondono. Madame era molto scontenta. In una di quelle notti, Rannusia propose a Jolly di fuggire insieme. Ha fatto di tutto Rannusia, sa come si ricomincia da un'altra parte del mondo. Cominciò a mettere da parte i soldi. Lei, che è famosa perché appena può da strizzate e morsi che fanno male, ora trattava l'arnese maschile con tenerezza improvvisa, come trattava Jolly. Invece di nascondersi appena la chiamavano, si trasformò in un'infida gatta che si strusciava chiunque per una moneta. Divenne implacabile nell'amore, per amore di Jolly. Voleva farle vedere come poteva essere ancora splendida fuori dal casino. Fu allora che apparve il ricevitore del dazio, Ovidio. La guardiana del faro. Fine 800, martedì grasso al bordello, un bordello di campagna tra le colline, è caduta tanta neve e nessuno dei clienti finora è arrivato. In questo scenario si svolge la storia d'amore tra Jolly e Rannusia, due ragazze della casa. Rannusia ha proposto a Jolly di scappare insieme, stanno preparando la fuga ed è a quel punto che arriva Ovidio. Ovidio trattava le puttane come signore e aveva la perla alla cravatta. Jolly impazzì per le sue buone maniere. Se ne impadronì al punto che lui non si accostò mai alle altre. Ovidio era un vero signore, ma di letto ne sapeva poco. E abbagliato da Jolly, le regalò una bambola di Parigi vestita come un figurino di Wart, con un cofano di legno rosa che conteneva altri 6 abiti. Jolly mostrò la bambola a Ranusia. Le disse, vedi, io sono la sua bambina. In Jolly bruciava la febbre della vera carriera, il matrimonio. E stanotte lui verrà alla porta del cortile. Farà il segnale del gufo e Ranusia si uccide pure. A lei che importa. La neve cade, cade. E ancora nessuno. Ma dove sono finiti gli uomini? Qualcuno sfiderà la tormenta per 4 puttane? Lui non ti sposerà mai, dice Ranusia a Jolly. Ti ha presa in giro. Vedrai, vedrai. Jolly si tappa le orecchie scuotendo la testa. Verrà invece. Ho visto sua moglie. E così proterva. Dimenticherà quella spilungona brava in catechismo. Ranusia tace. Anche lei ha visto la moglie di Ovidio e sa che è troppo piatta. Come si fa a trattenere un uomo senza curve o pensieri d'amore? E Jolly è sempre così profumata. Jolly, le dice il suo sguardo. Jolly, sapessi quanto mi immalinconisce pensarti in una casa coi servi e Ovidio per marito e i nomi cambiati perché non si sappia che sei stata puttana. Diventerai così triste che non vorrei mai più toccarti, nemmeno per compassione. Quelli invengono più, madama. E non rimasti al caldo, sti traditori, sti finocchi. La Nichilina, che fu guardiana di porci, è sincera. Non riesce più a far finta di niente. Il suo rozzo grido svela il sospetto di tutte. Sarà questo carnevale la festa delle mogli? Avranno vinto le antipatiche, le senza culo, le schiave del fornello. E noi? Io me la lavo 2 volte al giorno, mentre la moglie dell'avvocato Ceronetti, mi diceva lui, giusto a Natale e a Pasqua. E poi lei, quando mi incontrava, alzava la testa come la regina del Taitù, pulita. Ranusia trionfa su Jolly. Nessuno verrà. Cacciatelo in testa e togliti quei pennacchi da poco. A quest'ora Ovidio sta ridendo di te. Jolly correva a ogni finestra, supplicando la neve intatta. Stava perdendo la prudenza e anche le altre bisbigliano. Chi sa una cosa, chi un'altra. Viene fuori il segreto che Jolly aspetta Ovidio per fuggire. E lei la più sfortunata. Le altre sono state abbandonate dai maschi, ma Jolly da un uomo, uno solo. E questo fa più male. Ammiccano, si danno di gomito e Jolly le supplica, zitte, per carità, non vi fate capire dalla padrona. Ovidio sarà qui da un momento all'altro e se quella lo viene a sapere farà un diavolerio. La Gullon trattenne un sorriso. Povera Jolly, ma io lo so da un pezzo. Quando il cliente diventa troppo affettuoso, io sto subito allerta. Avevo capito che Ovidio ti faceva girare la testa con qualche promessa esagerata. Lo sai perché gli piace tanto promettere? Perché li eccita. Ma una volta rivestiti si dimenticano. Il tuo Ovidio cambierà bordello, dirà le stesse cose a un'altra. Ed ecco dalla stanza di Jolly si sente uno schiamazzo. Le ragazze hanno trovato l'abito di nozze. La Nichilina se lo appoggia addosso. Damina le regge lo strascico e si chiamano sposo e sposa. Jolly sulla porta è ferma e bianca. Loro ridono, ridono, le ridono in faccia. Le lascia fare, non ha più gesti. Solo allora, e con vero stupore, pensò che Ovidio l'aveva ingannata. Ma si sentì un rumore sordo sulla neve. Le altre, per sfotterla, dicono «Jolly, corri, non senti? È lui che viene per sposarti con tutti i sacramenti!» e si tenevano la pancia dalle risa. Ma Jolly non si mosse, per non fare la figura della scema, e perché era come morta. La Nichilina andò alla finestra e gridò «Giuro! C'è un uomo! Jolly! C'è un uomo!» Le altre corsero a vedere, ma Jolly era convinta che fossero le ragazze a giocarle un tiro. Non ha più voglia di ridere, è stanca. Le spese del carnevale le ha già fatte. Ma nel silenzio si udì chiaro il verso del gufo e la porta dell'orto si aprì per davvero. Contro la neve apparve un uomo in mantello e cappello che piano chiamò «Jolly!». Solo allora Jolly si lanciò sopra l'abito profanato calpestandolo con gioia e corse alla balaustra. Le ragazze, ammucchiate in un angolo, erano rimaste senza fiato. Schiacciate dall'arrivo di Ovidio, tra le invidiose Jolly passa come una regina che fu oltraggiata, ristabilita nel suo rango. Se la Gullon si azzarda a trattenerla, la ucciderà con la pistola di Madreperla, dono di un falso conte. Ma Ranusia dov'è? Ranusia manca al suo trionfo. Si sarà nascosta. per non darle soddisfazione. Mentre Jolly indugia, sperando che torni, le ragazze vorrebbero tutte essere lei. Farebbero qualsiasi cosa per scalzarla nel cuore di Ovidio. Rapita. La sua fortuna le uccide. E perfino la Goulon stavolta zitta e mosca, che ha avuto una bella lezione lei pure. Ovidio ebbe un gesto di fretta, da fuggitivo. Jolly fu costretta a scendere, ma lentamente, per godersi gli attimi. Di Ovidio in quel momento poco le importa. Le importa aver avuto ragione e le altre a bocca asciutta. Martedì grasso, un uomo solo si è mosso, per lei, e non per un futile ballo, per sempre. Gli si gettò tra le braccia. Mentre si stringevano, l'uomo alzò la testa. Tutte lo fissavano. Ma non è Ovidio. È la faccia di Rannusia, che sorride a Jolly sotto il cappello, travestita da uomo. Un bello scherzo di carnevale. Il migliore. Le ragazze gettarono un grido di derisione terribile. L'allegria scoppiò disordinata, ma subito tacque. Subito in bocca hanno l'amaro. Sentono che Rannusia non ha beffato solo l'attesa di Jolly, ma la loro. Le emozioni delle deluse passano attraverso Jolly, che si slancia contro Rannusia. E lei! È lei che non li fa venire! Nella destra di Jolly scatta il coltello, ma Rannusia si scansa. La Goulon, svelta, getta un pugnale anche a lei, che è carnevale e si vuole divertire. E così durerebbe troppo poco. Le ragazze si mettono in cerchio per il duello. Tutte stanno con Jolly e danno spinte a Rannusia perché cada sul coltello. Rannusia non vorrebbe farle male, ma Jolly una cosa sola vuole: piantare il serramanico o farselo piantare, ben saldo, nel petto, senza ritorno. Rannusia si finge agguerrita e manda vuoti colpi. Tu lo sai, Jolly, io non ti ucciderei mai, ma non venirmi così sotto, o sarò costretta a far vedere chi sono. Poiché l'amore è perduto, Rannusia vuole salvare almeno la fama di cattiva. Se no, di chi vivrà d'ora in poi? Come le lotte dei galli, si punta e volano piume. Il pennacchio di carnevale di Jolly ne è tutto spennato, ma nessuna più ride che Jolly vuole il sangue. Jolly mira alla gola di Rannusia e lei, che non vuole uccidere, morirà. Space cake break on the Titicaca Lake. Got some more in Ecuador. Stole a car in the streets of Panama. Went too far in Bogotà. E io? Io non sono invitata al carnevale? Disse una voce tremenda in cima alle scale. Di lassù sta scendendo Cantilena, la sua vecchiaia indecente mascherata da giovane donna. Lo scheletro si è dipinta da bella, come un morto uccello che una mano dietro muova. Lustrini sontuosi ornano la sua gobba e i poveri vecchi peli ne rimangono 9, a tutti arricciati sotto l'abito trasparente che mostra la voragine del suo sesso. Tutte ammutolirono. Il coltello cadde dalle mani di Jolly. Rannusia lo ripose, in silenzio. Cantilena la bella scende le scale per fare invidia alla morte, che non è certo più figa di lei. E la Goulon disse: «Festa, ragazze! Sangue di Giuda! Lo facciamo senza gli uomini il martedì grasso! Ci sappiamo divertire anche da sole!» Si rimise a pestare il piano. Cantilena guida la quadriglia, con le ossa che sbattono, e vuole il marsala, e vuole la torta, e dice: aspetteremo così d'ora innanzi la morte, col belletto alle guance e il dolcino nel gargarozzo. A little weak, a little pale today. Looks like it's time for that certain holiday. Le ragazze cominciarono le danze con chiasso, umiliate di ballare tra loro. Almeno uno ne fosse venuto. Ne bastava uno. Uno solo. Rannusia si rimise il cappello che era volato via nella lotta e con un inchino perfetto invitò Jolly al ballo. Jolly esitò qualche istante come deve una dama. Poi d'impeto si fece stringere con uno strano orgoglio e girano e girano e le altre girano intorno. E accadde qualcosa che a Rannusia non era mai capitato, nemmeno ai tempi dell'avventura. Per quell'ala di cappello che le taglia la fronte, per quel vestito da viaggiatore, per la cravatta impeccabile su cui spicca una spilla di diamante, Rannusia è ora al bordello l'unico maschio, il centro del desiderio, il cavaliere. Damina le sorride audace, a bocca chiusa, che le mancano i denti. Per Rannusia l'anichilina muove i lardosi fianchi. Per lei, Elvira si scopre ridendo le orecchie, che ha belle. Looks like it's time for that certain holiday. Quelli che la disprezzarono si lanciano alla sua conquista e Jolly si sente la prescelta e regina dell'unico re sulla piazza. Tutte vogliono un giro di valzer con lui, Rannusia, potenza del carnevale. Per un abbaglio, per una maschera, per i maschi che disertarono, Rannusia è la nostalgia. E Jolly, stretta a lei, gira, gira, gira. Nella sua testa leggera la sovrappone Ovidio, che sfuma via. Voleva sposarsi, ecco il marito, ecco il gentiluomo. E non si lasceranno mai. Per la felicità crudele del lieto fine, Jolly gira, gira, gira. La guardiana del faro. Nella storia che abbiamo appena letto, le ragazze del bordello umbro alla fine dell'Ottocento, dal romanzo Donna di piacere, sono ragazze semplici di campagna, lontanissime dalle cosiddette escort, dove la degradazione comincia dal nome. Escort, nome servile da valletto, che cancella la personalità e la persona, vi immaginate, Nanà d'Isola, che potrebbe mai accettare un nome così infamante. Che aspirano magari a una carriera politica, mi ricordo questa famosa ragazza favorita dall'uomo più potente d'Italia che disse: sono incerta se fare la TV o un posto in Parlamento. Figure noiose, misere, senza fantasia come i loro clienti e come i loro clienti gonfiate, rattoppate, ridotte a caricature. E c'è un libro, è uscito adesso da poco un libro per Mondadori, che restituisce dignità e umanità e valore storico alla figura della prostituta. Si chiama Le signore della notte di Giuseppe Scarafia, dove parla di bordelli dal 700 al 900. Un libro fastoso, un libro prezioso. Giuseppe Scarafia è docente di letteratura italiana all'Università La Sapienza ed è uno dei più raffinati e spiritosi pettegoli letterari. Anni fa si era parlato di riaprire le case chiuse facendo cooperative di ragazze autonome dalla malavita e da papponi, e mi ricordo un vecchio signore che aveva conosciuto quelli del passato e se ne uscì con un "riaprono i bordelli". Ah, bene, hai visto mai dovesse rinascere la letteratura? E qui in prima mondiale al faro abbiamo Giuseppe Scarafia. Ciao Giuseppe. Ciao Barbara, eccoci qua. Il libro si chiama Le signore della notte, ma sono soprattutto i clienti della notte. Insomma, Beppe, hai portato al bordello tutta la letteratura e la storia. Hai portato Camus, Picabia, Céline, Picasso, Graham Greene, Wilde, Colette, Victor Hugo, Napoleone. Alcuni fra centinaia di nomi che vi appaiono, perché è veramente un piccolo sconfinato vaso di Pandora. In 140 pagine c'è un numero di informazioni piccanti, squisite, infinite. Quasi una piccola storia dell'arte che tracci attraverso questo racconto. Ci parli del Signore della Notte, che è anche un libro erotico, pieno di informazioni sulle abitudini più svariate. È un libro che nasce infatti dal senso di stanchezza, dell'ipocrisia in cui in questi anni la lotta politica ha fatto vedere le prostitute e i clienti, cercando di degradare entrambe le cose. Questo è in un periodo in cui le attrici fanno gara a farsi fotografare senza biancheria intima, quando escono dall'auto mettono le foto su Twitter, i giornali si occupano incessantemente del punto G, di come non perdere il marito appunto avendo dei buoni rapporti sessuali. Quindi una cultura molto legata a quella della prostituzione, che però proprio per questo ha orrore, ecco, di questa ispirazione inconfessabile. Scusa Beppe, però scusami se ti interrompo, però c'è anche stata appunto una degradazione dell'immagine e della sostanza. Tu immagina Rubi Rubacuori invece di della Contessa di Castiglione, Lometto Ricucito invece di Napoleone III e invece di Cavour Lele Mora. Quindi il tuo libro mi piace enormemente perché restituisce eleganza a questi rapporti. Certo. Tra l'altro ci fai, tu hai sempre questa capacità nei libri, ma ci fai entrare in una intimità con i letterati come non mai accade leggendo una storia della letteratura. Ho molto apprezzato il capitolo dove parli delle visite guidate. Cosa sono queste visite guidate? Le visite guidate guidate sono fatte per le persone che sono un pochino, diciamo, incerte. Pensa che alla fine hanno scoperta una troppo tardi, lì la nomino fuggevolmente proprio perché non avevo ancora tutto il materiale. Simone Weil, no? Questa grande filosofa, autrice, mistica. Vestita d'operaio. Che... no, sì, si introduce al bordello. Però si introduce al bordello per motivi di studio. Ecco, però poi a un certo punto ho trovato le testimonianze di un suo amico che dice che lei a un certo punto è stata scoperta e è dovuta scappare via. Però nelle visite guidate parli molto anche dei grandi uomini che portano le loro mogli al bordello. O viceversa, o le mogli... Nella serie di Tony accompagnata da sua moglie, da Grant Green che andava con l'amante travestita da marinaio, un'amante amata veramente moltissimo nei bordelli di Napoli, a, diciamo, il più flagrante è Simenon, che in America e in Messico arrivava con la moglie che spesso sceglieva lei, le sue amanti, e le condivideva con lui, per cui loro avevano le fotografie con la dedica a entrambi delle prostitute, appunto, che erano state ammaliate da questa coppia. La cosa ancora più interessante e veramente cosa che orripila il presente è che una volta che la moglie non sta bene accompagna lo stesso Simenon, ma non sale con lui, però gli indica una ragazza molto giovane. Lui resiste per un po', poi dopo cede, e quando esce vede la ragazza entusiasta, perché dice all'amica, alle colleghe, dice finalmente qualcuno mi ha scelto. E poi parli molto anche dei piagnoni, cioè di quelli che l'accessorio poi finale del piacere è il pentimento, come Tolstoi. Il pentimento doveva essere un condimento fantastico. È squisito, vero? Sì, infatti. Noi che siamo condannati a questa carne insipida. E poi prendi anche in giro i salvatori. Stevenson, che appena va con una prostituta subito la vuole sposare. Sì, quelli che vengono chiamati i monsignori. Poi c'era in mezzo, c'era una strana categoria come il pittore Degas, che invece l'ha chiamato il pettinatore. Lui ha lasciato dei disegni molto belli, osceni, molti sono stati distrutti, ma alcuni sono rimasti. E lui pettinava queste ragazze seminude dei bordelli ammirandole. Poi ci sono i timidi che hanno appunto questa grande pulsione verso il bordello, però non hanno la forza spesso di concretizzare. E tra questi ne abbiamo a Firenze Paul Klee, che sale con un amico e trova un bordello con un'aria così per bene che pensa di essersi sbagliato. Tutte le ragazze appena svestite, però con un'aria molto normale, la maîtresse che sembra una vecchia zia. E a un certo punto poi che sferruzzano, sì. Che sferruzzano. Poi lei non ce la fa e scappa. E le ragazze quindi dicono, ehi, vi vergognate? Poi ci sono, non so, filosofi come Nietzsche, come Walter Benjamin, che diceva, i libri e le puttane possono essere portati entrambi a letto. C'è soprattutto quest'idea del sesso di per sé, anche nella sua grandezza e povertà, come consolazione della vita, delle durezze della vita. E questa idea anche del valore, cioè la gente orripila quando il sesso viene pagato, ma perché? È un lavoro come un altro, tutti diamo un po' di corpo, un po' di mente nei nostri lavori, perché pensare così che il corpo debba essere il tempio di qualche divinità? E poi parli molto anche delle puttane eroiche di Maupassant, da Boule de Suif a Mademoiselle Fifi. Ma l'esempio più bello secondo me è quello della principessa di Belgioioso, che nel 1849, durante l'assedio di Roma, arruola prostitute per curare questi giovani morenti, e loro li curano con una devozione, non arretrando di fronte ai lavori più scoraggianti, alle ferite più tremende, finché non interviene il Vaticano che blocca tutto perché non può ammettere questa mescolanza tra una vita che viene ignorata, anche se nei Stati Vaticani aveva uno statuto legale, e la vita reale. E poi c'è sempre una grande rivalità, perché sanno benissimo che la prostituta ha più ruoli di un prete, perché è tante cose, è confessore, è infermiera, è sesso, è piacere, ha una conoscenza umana sicuramente maggiore di quella di un povero parroco di campagna che non conosce la carne. Trovo che era molto belle in quel grande libro che era Quando l'Italia tollerava, Corrado da Fusco, le parole di Buzzati. Buzzati che diceva, se mi chiedete se sarei contento se mia figlia facesse la prostituta, vi direi no in questa società piena di pregiudizi, ma in un'altra società sì. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.